La zanzara. Festa in due dei Ridillo, in realtà le feste di Berlusconi non erano solamente in due. Allora, Daniele Benji Benati, Claudio Zaroni, Renzo Finardi, solamente tre, perché siete venuti solo in tre? Abbiamo Paul Derry, che salutiamo, che ha una serata stasera in un posto strano, e abbiamo invece Alberto Benati, mio fratello, che è in studio di registrazione a completare l'album, perché stiamo per finire un album, signor Cruciani. Che titolo avrà quest'album? Ah, non abbiamo un vero titolo, possiamo aprire. Titolo, no, abbiamo un'idea, però. Da una frase di Andy Warhol, che è profondamente superficiale. Ci piace questa idea. Dunque va benissimo per noi. Esatto, perché siamo profondamente superficiali. La nostra musica sembra molto superficiale. Sentite queste cose molto schitarrate, e hanno sempre invece un qualcosa di profondo. E quindi. La frase qual è? Profondamente superficiale. Ah, la frase era questa, sì, profondamente superficiale. No, come pensavo... i suoi quadri, la sua arte, no? di Andy Warhol, ma come anche noi, come queste cose. Allora, qui ci dovete rivelare da dove viene Zanzara Party. Zanzara la Party. Mitica Zanzara Party. È una frase, tu non ci puoi credere, Parenzo, ma nessuno lo sa in realtà. Zanzara Party, che accompagna ormai le nostre serate da mesi, è in realtà una frase di Zavattini. Non è che Zanzara Party è una frase di Zavattini, però spiegami questa cosa, sì. Daniele. Era un album, intanto saluto il signor Parenzo, che non ci siamo ancora salutati. Salve Parenzo. Buonasera. Allora, inchinati un attimo. Mi sto inchinando, stavo ballando davanti alla macchinetta del caffè qui, mentre mi hanno Zanzara Party. Esatto. Ma noi devi sapere, Daniele, dovete sapere che questo Zanzara Party, oltre ad averlo trasmesso in tutta Europa, nelle nostre puntate al Parlamento Europeo, e praticamente lo facciamo in aereo. Racconta un po', Parenzo, che sei più bravo di me a raccontare noi queste cose. Quando andiamo a Strasburgo e andremo presto di nuovo in Europa, a un certo punto l'aereo sta per decollare, io e il direttorissimo ci guardiamo e cominciamo Zanzara Party, e tutto l'aereo si eccita a questa canzone, e tutto l'aereo inizia, come l'aereo più pazzo del mondo, a ballare. Grande. Senza sapere di che cosa stiamo parlando. A voi abbiamo coinvolto in questa cosa assistenti parlamentari europei, uffici stampa. Mr. Cruciani, what is Zanzara Party? It's a new party. Vabbè, insomma, viene da Cesare Zavattini. Sì, Zavattini, che era di Luzzara e quindi era vicino a noi, abitiamo tra Novellara, le basse tra Mantova e Reggio, no? E lui scriveva questa frase che coppie verso sera vanno a fare l'amore sotto i salici, alternando i baci agli schiaffetti che si danno sulla faccia per ammazzare le zanzare. Ecco, e da qui kiss me and schiaffeggiami, no? Kiss me.